15. Le nazionalizzazioni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel maggio 1945, il governo di unità nazionale guidato dal generale de Gaulle nazionalizzò Nyon et Rhône con decreto, associandola alle attività dei motori aeronautici di Renault, Rainier, Potez e Voisin. Nacque così la SNECMA, Société Nationale d'Études et de Constructions des Moteurs d'Aviation. Davanti a lei si trovano diversi motori delle aziende riunite all'interno della SNECMA. In quell'epoca, i motori a pistoni lasciarono il posto ai turbogetti, nati durante la guerra. Si trattò di una transizione tecnologica fondamentale, che richiese la creazione di nuovi team di sviluppo. Per ascoltare il prossimo commento, si avvicini e aggiri il muro a sinistra, fino al motore Hercules.